sento anche quando non ci sei. Pur volendo non posso fare a meno di te. Il tuo corpo è il mio regalo dagli dèi. Quando ci uniamo non so spiegarti com'è. Io non so starti lontano, tu mi ripeti vai piano. Ma io ogni volta ti chiamo, poi ti ristringo la mano. Io sento il fuoco di già, se vuoi che fingo giochiamo. Ma è già da un po' che il gioco è diventato realtà. Prima fai tabula rasa, poi giri nuda per casa. Così se la temperatura è sotto zero c'ho l'afa. Tu non rimani pervasa, ma la mia mente è già invasa. Da domande a cui non ho risposte, si intasa. Assa, già ad ogni tuo sguardo, ogni smorfia. Assa, mito da tutto quello che provo. Passa, ogni dolore, ogni storia storta quando vuoi il sesso e lo chiami nell'altro. Non so più che c'è, chi sei, che hai. Io non so mai se tu mi vuoi, ma mi hai. Il tuo profumo è a casa mia, sai che sei una malattia. Sotto la tua egemonia esaurisco l'energia, ma resisto finché non diventi mia. Io non so più che c'è, chi sei.